9 e. Ascolta e trasforma. Sa guidare la macchina. Sanno guidare la macchina. Sa cucinare. Sanno cucinare. Sa suonare il pianoforte. Sanno suonare il pianoforte. Sa giocare a tennis. Sanno giocare a tennis. Sa fare tutto. Sanno fare tutto. Sa parlare cinese. Sanno parlare cinese.